parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai, la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, Galesh. Sognavamo Bari Bari, why not? No, fricchettoni sì, racchettoni, gavettoni no, ombreloni né, mani mani neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se ricoperti di stoffa, musica new wave, gente che sboccia, sembra quei privé da scambi di coppia, ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza, tipa col bikini in seta, eccitata per il seitan e da Calcutta o Baudelaire, un po' la fa, un po' la dieta suda, le collo il make up a fissare il mio panino allo sfer, tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggia ancora, trattenere il fiato, tenere dentro la pancia, lui si porta i libri di Kafka, ma poi studia solo ogni culo che passa, cosa importa se due fiori dentro la borsa. Cosa importa se